Lugo è circondata da fiumi, il Senio e il Santerno in particolare, ma anche degli altri canali che in qualche modo sono stati i principali protagonisti di questa performance del clima che cambia. Noi siamo stati messi sul chi va là da un paio di giorni, perché appunto questa perturbazione che è stata l'origine di questa che possiamo chiamare una tragedia, perché ci sono stati anche dei morti, eravamo pronti a qualsiasi cosa che potesse succedere. Ieri mattina, verso le 6 del mattino, è purtroppo uscito dagli argini il canale Emiliano-Romagnolo, che è quel canale artificiale che è costruito per assistere la campagna, per irrigare i campi in un periodo di siccità, eccetera, eccetera. Quindi quest'acqua che è uscita dagli argini del canale Romagnolo ha cominciato ad arrivare anche fino al centro storico. Io francamente l'ho vista arrivare prima di tutto nel mio garage, dove quando siamo stati a vedere di togliere la macchina per evitare che fosse, che andasse sott'acqua, abbiamo visto che dalle rampe dell'ingresso nel garage stava venendo giù un fiume, e allora abbiamo deciso intanto di prendere sulla macchina e poi cercare di portarlo in un punto dove potesse essere, come dire, sicura. Poi però la macchina ha comunque l'acqua alle ruote, perché l'acqua si è sparsa su tutta la città e non c'è stato quasi nessun punto in cui non è stata raggiunta. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere nella parte, in corso principale di Lugo, in corso Matteotti, quindi è quello che porta alla piazza, e la mia casa e altre due non siamo stati raggiunti dall'acqua. Avevamo la parte destra e la parte sinistra che stava cominciando a congiungersi e poi fortunatamente si è fermata, ma il problema è stato che non c'erano sostanzialmente la possibilità di far defluire le cose, perché tutte le fogne erano intasate. Molte case si sono allagate dall'interno, perché hanno dei cortiletti interni da cui, come è successo anche a noi poi verso sera, hanno cominciato a risalire le acque, per cui noi avevamo tutti i cortiletti che ci sono qui anche nelle case del centro e si stavano riempiendo d'acqua per l'esondazione appunto delle fogne. Siamo riusciti in qualche modo però a tamponare anche questa cosa. Questa mattina, anche se qui è ancora cominciato a piovere, ma non in modo così violento, quindi adesso stiamo tranquilli, è rifluito quasi tutto, salvo in alcune zone che sono un po' più basse. Allo stato attuale ci sono ancora parecchi, mi risulta, punti dove l'acqua continua a stagnare. Bisognerà probabilmente toglierle con delle turbine, con qualche pompa. Nel comune ci sono comunque persone che sono state evacuate? Sì, sicuramente sì, anche non necessariamente di quelle che hanno avuto l'acqua, diciamo, sulla propria casa, ma anche perché c'erano persone anziane magari, e si è fatta il rifugio sostanzialmente nel Palasport, che è un po' nella zona vicina alla periferia, insomma, e lì è stato attrezzato qualcosa che potesse accogliere coloro che erano in difficoltà. Francamente, quando l'acqua comincia ad avanzare, pur non avendo la caratteristica di quei fiumi che abbiamo visto anche noi per televisione, fa effettivamente un po' paura, perché poi dopo non sai esattamente come riuscirai a toglierti da questi inghippo. Le cose sembrano essere funzionate, ci sono girate parecchie persone anche qui in strada da noi con dei mezzi anfibi. Per il momento non mi risulta che abbiano usato, almeno in centro, dei gommoni.